Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica, bentornati all'incontro di oggi che è con Renato Ugo. Buonasera, buongiorno professor Ugo. Buongiorno. Renato Ugo è presidente dell'Associazione Italiana Ricerca Industriale. Abbiamo iniziato questo incontro con la sagra della primavera, che è un motivo che le dice qualcosa. Beh, la sagra della primavera è stata scelta perché speriamo che ci sia la primavera della ricerca in Italia, quindi è un segno di speranza, perché è una musica che porta a pensare al futuro, è molto ritmica. È molto ritmica, è molto quasi violenta, quasi, è quasi violenta, perché forse c'è bisogno veramente di che l'attenzione per questo settore che è così importante per la nostra nazione come la ricerca e l'innovazione abbia una spinta da parte dell'opinione pubblica, ovviamente da parte del governo. Non a caso il Presidente della Repubblica ne parla continuamente, perché riteniamo che sia vitale per il Paese. E allora forse ci vuole una musica di fondo, né più né meno, come quando uno inizia un'operazione di sviluppo, ecco, quindi va molto bene la primavera, la saga primavera, è stata una musica di rottura. Proprio. Dal punto di vista meteorologico la primavera è iniziata da qualche giorno, pensiamo che, speriamo almeno che possa iniziare anche da un punto di vista sul fronte della ricerca. Renato Ugo è stato professore ordinario di chimica inorganica a Milano, ha avuto la laurea honoris causa a Potsdam a New York negli Stati Uniti e medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, una vita passata tra chimica e ricerca. Beh sì, è una vita divertente, sa, passare tra chimica e ricerca, perché un ricercatore ha una vita divertente, una vita molto eccitante, particolarmente quando si è più giovani, ma poi anche dopo, quando un po' si fa crescere gli allievi, si fa crescere, si fa politica, si cerca di incidere sul paese, sulle direttive, ma quello più bello è vedere gli allievi che crescono. Ma come è nata questa passione? Forse da bambino gli hanno regalato il piccolo chimico? No, le posso dire che da bambino volevo fare l'archeologo, ma negli anni 50 avevo un padre, io poveretto è morto, ma era un uomo molto eristriano oltretutto, pur essendo io nato a Palermo, e aveva molto buon senso. E lui mi ha detto: puoi fare l'archeologo quando vuoi, ma per il momento ti metti in un settore che tira molto. E la chimica negli anni 50 era il settore industriale che stava rilanciando la nazione. Quindi l'ha fatto più per dovere che per piacere, ma poi si è appassionato. No, ma perché poi ho trovato che la chimica è come l'archeologia, è una scoperta continua. Quindi a me piaceva l'archeologia perché era il segreto di trovare qualche cosa che non si conosceva. Mi ero messo a studiare addirittura i geroglifici, mi ricordo. Avevo trovato un vecchio dizionario degli anni dell'inizio del Novecento. E la chimica, quando io ho cominciato a capirla all'università, era una cosa affascinante. Quindi è stato anche ricercatore proprio sul campo, faceva tutte le formule chimiche. Io sono tuttora un ricercatore sul campo. Anche se ho 73 anni, dirigo un gruppo di ricerca, mi dedico talvolta negli spazi che ancora a disposizione alla ricerca, pubblico articoli su giornali scientifici avanzati, è un amore che non finisce mai. Ma a questo ha affiancato poi anche il fatto di essere manager all'interno di un'impresa. Sì, ma questa è stata una scelta di vita che ho fatto all'inizio degli 80, prima cosa perché sono una persona curiosa. E allora, diciamo, dal punto di vista scientifico avevo già fatto parecchio. E siccome avevo collaborazioni, allora c'erano atmosfere differenti, università e industria collaboravano strettamente, io avevo visto Natta da giovane e avevo dei rapporti stretti con la Montecatini, così fui chiamato improvvisamente un pomeriggio dal presidente della Monte Edison, che mi chiese: ma lei verrebbe con me a dirigere la ricerca? Ho avuto esattamente 24 ore di tempo per decidere, ho deciso, ho detto sì e ho fatto il manager. Erano gli anni 80? Nell'82. Mi ricordo ancora, 12 febbraio dell'82. E com'era il clima in quegli anni? Il clima era difficilissimo, si ricordi che era stato ucciso Taliercio, che era il direttore del centro della fabbrica di Marghera. Era un clima duro, la chimica perdeva un sacco di soldi, era un'operazione di ristrutturazione. Ma c'era una grande tradizione tecnologica e quindi io mi sono trovato ad avere la fortuna di dirigere un gruppo che tecnologicamente era all'avanguardia. C'era tutta la tradizione di Natta e quindi Io avevo 3.000 ricercatori allora con me da dirigere in settori che andavano dalla pastiglia del farmaceutica fino al pozzo di petrolio. I grandi gruppi però non hanno avuto grande fortuna, forse no. Più per colpa della finanza che non della chimica. No, ma probabilmente perché i grandi gruppi erano degli agglomerati e gli agglomerati sono degli errori, sempre. Perché a un certo punto le risorse finanziarie sono quelle che sono e si disperdono. E tutti quelli che hanno avuto agglomerati, con l'unica eccezione, credo, con la General Electric, ma non tuttora credo neanche stessa General Electric si sta focalizzando. Ecco. Certo. Io penso che la cosa principale a un certo punto bisogna focalizzarsi su quello che si sa fare e diventare i primi al mondo e i secondi. La mia esperienza è che se non si è primi, secondi, terzi, andare sul quarto o quinto come campionato di calcio non va molto bene. Ecco, l'Italia ha perso qualche occasione sul fronte della grande chimica. Ne ha perso moltissimo. Guarda, io le dico sempre, adesso va di moda, c'è il problema del Giappone, no? Io ho avuto, tra le varie cose, la responsabilità di guidare tutto lo sviluppo del business in Giappone della Montedison, perché tra le follie del presidente allora era quella di trasformare un professore universitario in un manager capace di sviluppare un settore commerciale. E quindi mi è stato dato il Far East da sviluppare. E andavo in Giappone spesso, ho anche venduto un impianto tecnologicamente avanzato al Giappone, no? E quando io andavo in Giappone avevo tappeti rossi, perché io ero l'uomo che portava i polimeri della Montedison. E nessuno sapeva fare i polimeri con le tecnologie a basso costo, di altissima resa, così, e di grande qualità della Montedison. Tutto questo è scomparso, ci sono varie ragioni, non c'è tempo qui di discuterlo, la realtà è questa però. Ecco. Però, nello stesso tempo, dalle morte di qualche cosa nasce anche qualche cosa di fede. Se andiamo a vedere, la chimica italiana è ancora il secondo settore manufatturiero in Italia. E quindi vuol dire che le competenze, le capacità, la conoscenza non sono state buttate via. Cioè, non è più la chimica dei grandi gruppi, è una chimica di base, una chimica... No, è una chimica fatta da gruppi più specializzati che occupano nicchie di mercato, però stanno diventando delle mini nazionali e delle mini società internazionali e lì sono leader. Cioè, stanno cominciando a capire che bisogna diventare leader, anche piccoli, anche leader viene considerato piccolo un'azienda che fa 1 miliardo di euro di fatturato, 1,5 miliardi. Anche piccoli, però... Cioè, poi ho imparato un'altra cosa, che invece che il volume degli affari conviene guardare in fondo, il risultato netto. E allora talvolta forse è meglio pochino meno, ma con certo. Più ritorno. Ma più sicurezza, più garanzie di ritorno e più utili. E lì certamente la ricerca gioca un gioco importante, perché sulla mia esperienza chi opera su processi propri, con prodotti proprietari, protetti brevettualmente, io ho imparato molto sulla proprietà industriale stando in Montedison, c'era una grande scuola. Tenga conto che quando io ero responsabile della ricerca a Montedison avevo 100 miliardi delle lire di allora di royalties sulla tecnologia del polipropilene, 100 miliardi di lire di allora di royalties. E quindi una tecnologia che appunto era stata sviluppata all'interno e che poi è stata venduta e sviluppata. È stata venduta e tutti gli impianti che vengono fatti tuttora al polipropilene sono con la vecchia tecnologia, quella che ho sviluppato io con i miei ricercatori. E quindi ecco, questo è uno dei punti forti, uno dei grandi ricordi forse che può avere della sua carriera, che comunque prosegue. Beh, e questo è un grande ricordo e anche un po' la delusione che la cosa non è stata poi andata a morire, ecco, cioè non ha avuto il successo, perlomeno la continuità che io mi aspettavo. Io ho lasciato poi nell'88 e in parallelo c'è stata la parte invece accademica, così, che mi ha dato grandi soddisfazioni. Io mi ricordo di essere diventato accademico dei Lincei a 42 anni, avevo una madre terribile che non mi diceva mai bravo, e tuttora è viva a 95 anni, quando sono diventato accademico dei Lincei mi ha detto bene. Beh, insomma, complimenti anche per questo. Poi è stato anche membro del CNR, mi sembra. Sì, sono stato il consiglio di amministrazione del CNR, ma sin da bambino, diciamo, sin da giovane ricercatore, il CNR ha avuto un ruolo importantissimo in Italia, perché il CNR negli anni 60-70 è quello che ha supportato l'università e la ricerca universitaria. Tutti se lo dimenticano, ma allora io prendevo i soldi del CNR, dai progetti del CNR. Poi sono cresciuto, sono diventato anche responsabile di un progetto finalizzato chimica fine secondaria negli anni 80, dove c'erano perlomeno 12 temi di ricerca molto grandi, che ancora adesso vedo che chi ha lavorato con me in quegli anni sono diventato adesso un importante ricercatore a livello internazionale. Incontri. Con queste note incalzanti, irruenti della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, riprendiamo il nostro incontro con il professor Renato Ugo, presidente dell'Associazione Italiana Ricerca Industriale. Abbiamo parlato molto di ricerca, ma non potevamo non farlo della prima parte. Continuiamo a parlare di ricerca. E cosa vuol dire essere presidenti dell'Associazione Italiana Ricerca Industriale dal 1984, quindi da quasi 30 anni? Sì, beh, sono un presidente bulgaro, direi, ecco, ecco. Perché... ma è un'esperienza molto bella perché si coordinano un pochino tutte le aziende principali dell'Italia, quelle che veramente fanno ricerca a livello molto serio, molto avanzato, e quindi si vedono quali sono le istanze interne dell'azienda sia nell'evoluzione del management della ricerca aziendale, che negli anni è cambiato moltissimo perché le aziende sono anche cambiate come politica, e nello stesso tempo si cerca di raccordare le necessità delle aziende con le politiche nazionali, che è molto più difficile. Perché... Ecco, politiche nazionali, già ce ne avevamo nella prima parte, c'è un problema sul fatto del finanziamento della ricerca. Ovviamente i soldi non sono mai abbastanza, ma in questo periodo forse sono un po' meno di quanto ce ne sarebbe necessità. Ma in Italia è sempre stato abbastanza minimo il finanziamento, perlomeno rispetto alle grandi nazioni che hanno dei PIL simili al nostro, perché è inutile paragonarsi a un Giappone o un'America o gli Stati Uniti, ma se pigliamo, noi dobbiamo paragonarci a una Germania, una Francia, un'Inghilterra e guarda caso una Finlandia, ecco. Certo. Quindi se ci paragoniamo a queste nazioni, noi abbiamo certamente un investimento in ricerca molto più limitato, sia quella pubblica, che però non è così male, ma quella privata. Ma il problema è anche deriva anche dal fatto, e noi lo stiamo studiando molto in dettaglio, che disgraziatamente dagli anni 80-70 le grandi aziende in Italia sono scomparse, quindi noi abbiamo una miriade di piccole aziende, le quali fanno una ricerca particolare che poi nei bilanci non appare, è quella che viene chiamata la ricerca nascosta. Quindi i numeri statistici in Italia trovano un valore fino a un certo punto, perché il Brambilla, che fa un prodotto che va a finire poi in Cina, diventa leader di questo prodotto in Cina, nel suo bilancio non mette le spese di ricerca. Certo. Perlomeno però ha preso un mercato in Cina con la sua tecnologia. Sono tecnologie incrementali, noi non siamo più capaci di fare tecnologie radicali come Natta. Ecco, soprattutto le piccole imprese si dice che fanno molto spesso innovazione senza ricerca. È possibile questo? Ma guardi, io ritengo che innovazione senza ricerca sia impossibile, e ricerca senza innovazione sia soltanto un fatto culturale. Allora, noi, il piccolo imprenditore è capace di cogliere alcuni aspetti della ricerca, perché è molto curioso il piccolo imprenditore, o perlomeno ha delle necessità, corre di qua e di là per vedere chi gliele può risolvere, ma essendo un innovatore è capace di vedere il nocciolo duro della ricerca stessa, che si può essere trasformato in prodotto e processo. L'innovazione è un fatto creativo, e quindi la ricerca è un fatto creativo, ma di un diverso livello. L'innovazione è un fatto creativo che richiede anche un concetto di rischio che nella ricerca è già inferiore, e nello stesso tempo una capacità finanziaria che... Ecco, se avessimo tutte e due le cose, la ricerca e l'innovazione, saremmo... Ma sai, io penso che i piccoli imprenditori italiani siano abbastanza innovatori, ma anche le nostre industrie, soltanto che le nostre industrie negli ultimi 20 anni, 30 anni, talvolta hanno avuto delle politiche estremamente non lineari. Adesso mi pare che si stiano più concentrando, se guardiamo sul loro core business, e se concentrano le loro poche risorse, le limitate risorse. Così io penso che le capacità di competere ci siano. Ma non dimentichiamoci che noi abbiamo, io dico sempre che noi abbiamo una Ferrari, questo è un modello quasi unico, dove noi abbiamo messo la capacità di progettazione che danno i nostri ingegneri, col fatto che noi sui motori, mi permetto di dire, sui motori automobilistici siamo ancora fra i migliori. Non a caso la General Motors ha messo il suo centro di ricerca sui motori a Torino. Indubbiamente. Speriamo anche nelle moto con la Ducati che con moto con la Ducati, ma possiamo. Ci sono tantissimi esempi. La Pirelli ha preso i pneumatici della Formula 1. Allora vuol dire che in qualche cosa siamo competitori, particolarmente quando andiamo a fare le cose che sappiamo fare. Ecco, lei mi pare è stato il fondatore dell'Asso Biotech, sì, dell'associazione delle aziende di biotecnologia. Sì. Come stiamo su questo fronte? Beh, io quando l'ho fondata, le dico che io prima cosa non sono un biotecnologo, però ho capito che era un settore importantissimo. Allora seguivo anche la farmaceutica della Mount Edison e ho visto che nella farmaceutica il futuro erano le biotecnologie. I farmaci biotecnologici avrebbero superato i farmaci chimici. E lì fu un'avventura. Io fondai, mi ricordo, fu come un incontro di carbonari in Federchimica, perché tutti ci guardavano con... Si sta sviluppando con difficoltà in Italia, perché siamo partiti in ritardo, ma anche perché, e questo è molto strano, io rimango sempre molto colpito, l'opinione pubblica, ma anche i media in Italia, non sono contrari all'innovazione radicale. Noi siamo un paese di conservatori su questo aspetto. Beh, per esempio c'è molta opposizione così culturale agli OGM, agli organismi geneticamente modificati. Noi siamo un popolo di individualisti, quindi se sulla parte che riguarda il farmaco siamo molto positivi, perché potrebbe capitare, certo, a me, quindi sulla parte che invece sono di carattere generale, cioè il cibo per tutti, la possibilità di avere cibo più selettivo, costi più bassi, così, dove io non ho un interesse diretto, allora mi dico no, se non corro un rischio per gli altri. Se fosse per me, anche se il farmaco è rischioso, lo provo. Ecco, quindi su questo fronte comunque l'industria italiana c'è. Ma l'industria italiana sta incominciando a svilupparsi, certamente. Ci sono tante piccole e medie industrie. E in alcuni casi, siccome siamo buoni imprenditori, il numero di farmaci in sviluppo in Italia è superiore a quello in Germania, biotecnologici. Nessuno lo sa questo, ma noi siamo superiori ai tedeschi. Ed è un caso, io quando l'ho visto sono rimasto sorpreso. Ecco. Lei è stato anche nell'Agenzia Spaziale Italiana. Tra no, ho tanti... fatto una valutazione. Ah, una valutazione. Ho fatto una valutazione, ho fatto parte del comitato di valutazione. È un'agenzia importante, sono settori importantissimi. Io ripenso che lo spazio e la parte aerospaziale sia un'area di grande ricaduta tecnologica. Noi abbiamo avuto due grandi aree di quella nucleare l'abbiamo persa, che è una grande area di, e l'altro è l'aerospaziale. C'è una fortissima ricaduta tecnologica che va a diffondersi in tutti i settori, particolarmente nella chimica. Tenga conto che oggi gli aeroplani più grandi sono fatti in materiali compositi polimerici, no? Il famoso apparecchio del Dream della Boeing, no? Sono stati i chimici che hanno fatto i materiali compositi, quindi la chimica, e noi siamo molto bravi in questo settore. Quindi l'immagine che si ha spesso dell'industria italiana è quella di un'industria tradizionale, i tessili, i mobili, le scarpe, l'arredamento e così via. Ci sono anche questi settori avanzati che comunque hanno un peso, hanno una intanto forza. L'industria del tessile, del mobile, delle ceramiche, così sta capendo che deve rinnovarsi, se lei va a vedere molto rapidamente stanno buttando innovazione dentro con i tessili tecnici, con le ceramiche che respirano e così via. Poi noi abbiamo queste strutture avanzate. Credo che negli elicotteristi siamo i primi al mondo, quindi elicotteristica, e anche nello spazio i nostri lanciatori, ma principalmente tutta la parte del sistema di controllo, di trasmissione dati delle navette spaziali sono italiane, quindi io penso che abbiamo dei settori di alta tecnologia e sappiamo competere in settori. In fondo in Italia abbiamo delle grandi risorse umane, delle grandi capacità, possiamo dirlo forse genetiche, di essere innovativi. Su questo non c'è dubbio. Lei vede, io ho sempre considerato che il grande innovatore italiano è stato Volta. Se lei vede, legge gli articoli di Volta, vede come un uomo ha inventato l'elettricità, perché Volta ha inventato l'elettricità, senza Volta non ci sarebbe stato l'elettricità, tant'è vero che Napoleone è stato 2 giorni a ascoltarlo. Io vorrei vedere qual è il politico italiano che sta 2 giorni a aspettare un nostro premio Nobel o un nostro scienziato di alto livello. Ecco, quindi siamo una nazione anche di scienziati. Ma io penso che siamo una nazione di scienziati, tant'è vero che quando andiamo all'estero poi i premi Nobel li prendiamo, perché ci sono infrastrutture. Io spero che... Sai, io non sono così un fanatico dei premi Nobel, io sono un fanatico della competitività della nostra nazione. Non sono un individualista, penso alla nazione come un insieme che abbia un insieme di industrie competitive. Poi se viene anche il premio Nobel, perché no? Ci fa immagine. Ecco, tra le strutture che devono sostenere la ricerca, l'università è tra i primi posti. Come pensa che sia l'università in Italia? ma da rifondare, guardi, da rifondare. Io penso che, come tutte le cose, non si può cambiare. Io personalmente trovo che questa nuova riforma abbia dei temi nuovi, però le cose che ormai non funzionano tanto sono da rifondare. Quando ero in azienda si chiamava zero budget. Bene, io sull'università farei un zero budget e poi partirei da zero con delle persone giovani, facendo l'università, attaccando alla competizione. L'università si sviluppano con la competizione, sta incominciando, eh? Le scuole superiori, la Normale di Pisa, la Scuola Sant'Anna, non voglio citare nomi, ma i centri di ricerca non profit che noi abbiamo qui intorno in Lombardia, altre strutture che stanno nascendo, che sono fondazioni, così stanno incominciando a competere sulla ricerca, non sulla formazione. E forse sono strutture che devono riscoprire anche il merito, la capacità, la professionalità. Ma l'università, il merito, io ho vissuto l'università tanti anni. Se le persone sono intelligenti, alla fine le persone che meritano trovano la loro strada, però con una tale fatica che forse sarebbe che arrivano un po' talvolta stremati alle posizioni dove possono incidere veramente. Forse sarebbe bene farli arrivare un pochino più giovani. Ecco, forse anche la nostra società dovrebbe offrire qualche elemento in più di scelta perché i giovani si indirizzano più alla ricerca che non alla finanza. Ma sa, è anche una questione finanziaria. Dicevo appunto questo, che il ricercatore è un poeta. E uno rimane poeta fino a una certa età. Quando a 35 anni la moglie ti dice ma guarda quello lì che a 35 anni guadagna 300 volte più di te, può venire qualche crisi. Deve essere un poeta che crede veramente alla sua poesia. E lei è sempre creduto? Ma io ho 73 anni e ogni domenica leggo articoli scientifici. È una cosa bellissima. Grazie al professor Renato Ugo di essere stato con noi, grazie della sua attività di ricerca, così come ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione e quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.